E quello che è successo oggi è a dimostrazione di solidarietà a tutte e tutti i compagni che già sapranno quello che è successo qua a Garbatella. Comunque ci fa dire che oggi è un buon giorno perché si riparte. Allora, insomma, c'è stata tantissima gente che è venuta da tutta Roma, ovviamente a dimostrare solidarietà al centro sociale La Strada. E, insomma, se ti va un po' di raccontarci anche quello che avete visto, quello un po' che è successo, e, insomma, calcolando che in questo ultimo anno, lo ricordavamo pure prima io e te al telefono, nell'ultimo anno ci sono stati, insomma, già diversi incendi, e questo non ci rallegra molto, insomma, ci costringe a dire che dovremmo, insomma, bisogna vigilare contro il fuoco un po' di più. Dovremmo vigilare contro il fuoco un po' di più. Eh sì, purtroppo questa è una città che quando diventa calda per i motivi sbagliati non è niente di buono per le tante e tanti che quotidianamente si sbattono e si danno da fare per renderla un posto migliore. Che vi devo dire? Che venire qua stanotte per trovare il nostro spazio, lo spazio del centro sociale della strada, in quelle condizioni, con le fiamme che uscivano alte, con il fumo che usciva, e avere negli occhi le immagini del cortocircuito di nemmeno un anno fa forse, e ti ricordavo prima anche quelle che particolarmente ci hanno colpito nel corso dell'estate scorsa del liceo Socrate qua di Garbatella, un pezzo de cuore della nostra comunità. È stata impegnativa come emozione da assorbire. Comunque sia, la dimostrazione di solidarietà, d'affetto vero, di passione che ci hanno dimostrato le compagne, i compagni, i fratelli e le sorelle che oggi sono venuti qua direttamente a Garbatella, a via Passino 24, ma che ci hanno telefonato da tutta Roma, da tutta Italia, ci rende forti come sapevamo di dover essere nel momento stesso in cui vedevamo lo spazio in difficoltà, perché il nostro spazio quest'anno è stato in difficoltà, non è venuto giù, non è stato completamente devastato. Una parte importantissima dello spazio è stata distrutta dalle fiamme, la nostra attrezzatura, i nostri tavoli, le nostre sedie, le nostre strutture mobili, che sono materiale fondamentale, come ognuno può immaginare, per portare avanti le proprie battaglie, è stata messa in difficoltà dalle fiamme, è stata distrutta dalle fiamme. Una parte strutturale del centro sociale oggi lo rende, essendo stata colpita dall'incendio, lo rende inagibile, quindi ci toglie la possibilità nel breve periodo di organizzare e continuare l'attività che quotidianamente facciamo, però ci stiamo, lo spazio ci sta, le compagne e i compagni che l'hanno reso vivo, il collettivo della strada, il collettivo d'antiniani del Socrate, le tante realtà, i progetti che si avvicendano quotidianamente dentro questo spazio per renderlo attivo, ma io dico di più, tutte e tutti chi di Roma e del resto del mondo hanno attraversato questo spazio, ci stiamo. Noi La Strada abbiamo sempre pensato che è questo, è una comunità viva che ha saputo essere attraversata da tante persone diverse, compagni, grandi, piccoli, che l'hanno resa viva, e quindi ci stiamo, quindi non è finito niente, anzi questo è il giorno per rimettersi qua, fare forza su quello che sono la ricchezza che ha saputo costruire questo spazio, questo piccolo spazio di Garbatella, e sappiamo essere tanta. Senti, una cosa, sapevamo, insomma, come ogni anno La Strada organizza delle iniziative il 25 certo. Sera, quest'anno appunto la sposterete, immagino, da qualche altra parte. Eh sì, tra le tante cose che dobbiamo fare, innanzitutto è quella di raccogliere la solidarietà di chi ci mette a disposizione, i compagni e compagni ci mettono a disposizione i loro spazi per cominciare questa campagna solidarietà. Cominciamo domani dalle sorelle e dai fratelli di Agrobax, che ci ospiteranno nella nostra tradizionale, possiamo dire, dancehall di Natale, che ormai da 12 anni facciamo il 25 sera, quindi questo sarà un primo momento. Adesso abbiamo da poco concluso la conferenza stampa, adesso abbiamo il tempo organizzata, diciamo, almeno sistemata questa data del 25 sera, a cui teniamo tutti particolarmente, e che casca, come dire, purtroppo, però contingente con questa tragedia, e quindi ci dà l'occasione per essere subito pronti a rilanciare. adesso ci fermiamo un attimo e organizzeremo, oltre a una campagna di solidarietà attiva con un conto corrente presente per donazioni, eccetera, anche un calendario di iniziative attraversando gli spazi e le realtà che oggi erano qua presenti, che si sono fatti sentire, che sono con noi in questo momento, lo sono sempre stati e lo saranno ancora nei prossimi anni. Ovviamente, insomma, la radio è sempre a vostra disposizione, certo, qualsiasi cosa, insomma, assolutamente, volete dire, pubblicizzare e via dicendo. Io, Amedeo, non so se, insomma, oltre a dire che, insomma, fino a poche ore fa stavamo insieme al Teatro Valle Occupato, esatto, per questa serata di insomma, questo, esatto, regalo di Radio Onda Rossa, insomma. Guarda, svegliarsi è stato fortuita veramente essere accanto alla radio stanotte, ci ha salvato gran parte dello spazio. Ve lo dico perché i primi ad accorgersi del fatto che la strada stava andando a fuoco siamo stati noi stessi, perché paradossalmente tornavamo dalla serata del Valle a sostegno della radio, e tornando siamo stati capaci e veloci a renderci conto subito stanotte che il fumo usciva dal centro sociale, che ci sta qualcosa che non andava, e che quindi ci ha dato la possibilità di intervenire velocemente. Quindi niente per caso, la solidarietà si trasporta in tanti modi, e meno male che ieri sera c'è stata una grande serata al Valle, e che domani faremo una grande serata ad Agrobax per la strada. Perfetto, io guarda, questo mi fa pure piacere, perché insomma almeno si è morto peggio, quindi va bene. Infatti va bene, noi Amedeo ti salutiamo, insomma continueremo a parlare comunque della strada, delle iniziative, del conto corrente e tutto quanto. La nostra solidarietà ovviamente va a tutte e a tutti voi, e ci vediamo domani sera ad Agrobax. Un abbraccio enorme a tutte e tutti, grazie un mille, abbraccio a voi, ciao ciao ciao ciao.